Cesare, io già prevedo di Roma infine un tradimento occulto. Se pronto al soglio tuo, non fermi il piede. Non aggiunger pena a chi nel cuore solo di gelosia sente il dolore. Ma, signor, non vorrei... Eccoti il foglio, e mira se fido di sleal cruel.